America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ombra mai fu Andrea Bocelli, ha cantato ieri al National Prayer Breakfast a Washington, una giornata molto importante dal punto di vista spirituale. Una volta all'anno c'era anche il presidente Barack Obama, alla fine una piccola chiacchierata. Chiacchierata su cosa? Beh, sull'Italia. Bocelli ha dato un quadro non troppo rassicurante, lo abbiamo ascoltato attraverso i microfoni aperti, di quello che sta capitando nel nostro paese. Si è sfogato, dice, ma lì litigano tutti, destra e sinistra, gli uni contro gli altri, non si riuscirà mai a fare un bel nulla. Obama avrà ascoltato interessato, perché in realtà anche qui c'è una battaglia molto simile, ma di questo sicuramente Obama poi parlerà la settimana prossima. Ve lo ricordo, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sarà a Washington il 15 per un incontro alla Casa Bianca proprio con Obama. Però questa giornata, questa interpretazione di Bocelli, credo che sia stato il momento più, delicato barra ispirato nella giornata politica di ieri, perché in realtà in Parlamento e comunque sulla scena politica di Washington se le sono date di santa ragione. And I'm very pleased to be joined today by my wife Kathy and my brother Tom. I speak for the mothers. All right. We will stop again. Please remove that woman. Ecco, avete sentito John Brennan, la voce tranquilla, calma. John Brennan, ve lo ricordo, il consigliere antiterrorismo del presidente Barack Obama, nominato a guidare la CIA e, come parte del processo di nomina, deve fare delle audizioni in Senato. E dunque avete ascoltato come, con voce pacata, dice: sono felice che ci sia qui anche mia moglie Kathy, saluta i senatori. E poi all'improvviso avete sentito di sottofondo una voce che comincia a protestare, comincia a urlare: ma li somali, assassini. Era la quinta volta che qualcuno si alzava in piedi cercando di interrompere questa audizione di Brennan. Un'audizione molto delicata, perché affronta la tematica dei droni, degli aerei telecomandati a distanza che hanno compiuto delle missioni omicida per conto del governo americano. Spessissimo missioni di successo, altre volte missioni tragiche, perché nel corso di questa missione vengono poi uccisi degli innocenti. In una particolare occasione è stato anche ucciso un terrorista, sì, Anwar al-Awlaki, ma un cittadino americano. Insomma, che è successo? Che alla fine Dianne Feinstein, subito dopo, l'avete sentita, batte col martello e ha interrotto l'audizione, che poi è ripresa poco più tardi. Ma questo per darvi un'idea della tensione che c'è stata ieri a Washington, soprattutto sulle questioni di politica estera, con degli sviluppi altrettanto duri anche su altri fronti. Sentiamo. The comment I made about the most dangerous foreign policy decision since Vietnam was about not just the surge but the overall war of choice going into Iraq. Chuck Hagel, candidato al Pentagono, l'audizione in cui Hagel cercava di convincere i senatori che lui è la persona adatta. Vi ricordo, ci sono molti repubblicani, Hagel era stato un senatore repubblicano, eppure molti repubblicani sono contro di lui perché considerano le sue posizioni troppo morbide, soprattutto nei confronti dell'Iran, e quindi sono preoccupati da questa nomina e stanno cercando di ostacolarla in tutto e per tutto, e quindi hanno cominciato a chiedere a Hagel conto di alcune sue posizioni nel mondo privato, per esempio che ruolo aveva l'Atlantic Council, che ruolo aveva la Private Equity MacArthur, che è una società di private equity, una finanziaria americana, c'erano dei fondi stranieri, possiamo fidarci di un uomo che magari ha avuto rapporti stretti dal punto di vista finanziario con dei finanziatori stranieri chissà da dove. Ma il punto centrale, ve lo ricordo, riguarda l'atteggiamento tutto sommato morbido da parte di Hagel sull'Iran. Un'altra richiesta prima di procedere con questa conferma da parte dei senatori era che Leon Panetta facesse chiarezza su quel che è successo a Bengasi. In the absence, as I said, of any kind of advance warning, a problem of distance and time. Di nuovo colorful, come si direbbe da queste parti. Avete sentito Leon Panetta che dice: benissimo, allora vi racconto che cosa è successo a Bengasi, ma vi dirò anche che il Pentagono non è il 9-11, non è il 911, cioè il pronto soccorso, il 110, il numero che si chiama per l'emergenza. Il Pentagono deve muoversi con cognizione di causa. Noi non avevamo uomini da mandare a Bengasi nel giro di due ore, di un'ora, di tre ore, e d'altra parte non siamo in grado di rispondere a tutte le richieste che ci arrivano, soprattutto quando sono confuse, come fu nella situazione di Bengasi. And did you support the recommendation by Secretary of State then Secretary of State Clinton, and then head of CIA General Petraeus that we provide weapons to the resistance in Syria. Ma la rivelazione più interessante di Leon Panetta ieri ha riguardato la Siria, il calderone medio orientale, ve l'ho detto ieri, e direi esplosivo sotto ogni punto di vista, dalla Tunisia appunto alla Siria, e Panetta ha rivelato che su raccomandazione del capo della CIA di allora, il generale Petraeus, si era deciso di aiutare i ribelli siriani, dandogli un appoggio logistico sia dal punto di vista di aiuto satellitare, una fornitura di armi e così via. La cosa ha funzionato per un po' di tempo, fino a quando il presidente Barack Obama a un certo punto ha deciso di interrompere questa missione perché temeva che ci sarebbero coinvolti troppo nel pantano siriano e quindi che conseguenze ci sarebbero state per la campagna elettorale. Beh, una rivelazione che insomma in qualche modo conferma, dimostra che alla Casa Bianca, come in qualunque centro di potere, alla fine il cinismo politico finisce con il prevalere. Ma la vera notizia di ieri l'abbiamo avuta da una dichiarazione in arrivo da Teheran. Ieri, se qualcuno di voi ha ascoltato la trasmissione, avevamo raccontato in una chiacchierata con Molinari come il viaggio di Barack Obama in Israele era centrato soprattutto sull'Iran e sulla Siria, e l'idea era quella di cercare una soluzione a questi due problemi. Sapevamo anche che in parallelo si era sviluppato un dialogo a distanza tra Stati Uniti e Iran, e con l'idea di far decollare una chiacchierata, diciamo così, bilaterale. Ci sarà comunque il vertice in Kazakistan il 26 febbraio, è un vertice importante perché riapre comunque il dialogo con la comunità internazionale. Parteciperà il quintetto Russia, Stati Uniti, Iran, Francia e Gran Bretagna con la Germania, quindi il 5+1. Ma la notizia che ci ha dato Khamenei è che lui non vuole il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti. Ecco, questo rompe ogni indugio, conferma che l'Iran è su una posizione molto dura. Non accetteremo di negoziare con chi ci minaccia, con chi esercita delle pressioni al di là dell'accettabile ai nostri confronti, ha detto Khamenei. Noi continueremo per la nostra strada, non abbiamo bisogno degli Stati Uniti. Insomma, la situazione si complica e io credo che alla fine della giornata di ieri, Barack Obama probabilmente, dopo i mal di testa che ha accumulato sul fronte delle nomine, le rivelazioni di Panetta e questa dichiarazione che ha raggelato l'obiettivo diplomatico americano di sviluppare un dialogo bilaterale con l'Iran, forse Barack Obama avrà rimpianto l'apertura della giornata in mattinata con la voce soave di Boccelli. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, l'America si sta preparando a San Valentino, e esattamente fra 6 giorni, il 14 febbraio, la festa degli innamorati. La Sony ha fatto un sondaggio per vedere quali erano le canzoni più popolari degli innamorati americani, e comincio con una delle canzoni preferite, Whitney Houston, I Will Always Love You. La dedichiamo a lei perché l'11 febbraio sarà l'anniversario della sua tragica morte. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!